amici miei. A parte vieni fatto, qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ma tu dici, io ci andrei volentieri. La vale, non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato in vita vostra. Andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Vi voglio benissimo, viva la topa! Ho sparato quando me lo sono trovato davanti all'improvviso. Ho avuto paura per i miei nipotini. I carabinieri però, il corpo del 28enne che tentava di rapinare la casa di Sicignano a Paprio Dadda, lo hanno trovato sulle scale fuori dall'appartamento, senza sangue all'interno. La zanzara è più grande bar d'Italia. Come dimenticare Parenzo, quello che ha detto ieri qui da noi il parlamentare europeo, possiamo definirlo così naturalmente, no? Il parlamentare europeo della Lega Nord. Il clown ormai. No dai, non esagerare come al solito. Certo, qualche giorno fa Blob, per esempio, meraviglioso programma, uno dei pochi che ancora riesco a seguire per intero, gli ha dedicato addirittura tutta una puntata al signor Gianluca Buonanno, il quale da noi qui alla Zanzara ieri ha fatto anche una... Zelig magari l'avrà fatto, anche il boss dei comici, il nuovo programma della 7, anche dai, non esagerare, anche ma dirà una cosa giusta su 100, una giusta ne dirà o no, anche una. Un nuovo programma che si chiama Vieni avanti cretino probabilmente, sì, ma una giusta su 100 ne dirà o no secondo te, una su 100? Ah, quello chiunque credo che magari anche... è questa, cioè vuole dare per chi si fosse persa questa cosa di ieri, vuole dare 250 euro ai suoi concittadini per farsi un'arma, per farsi una pistola, capito? Uno sconto, un bonus. Lo ha chiamato il bonus pistola. Essendo io sindaco, ho pensato di fare una cosa che secondo me può essere utile. Cioè? Invece di fare il bonus bebè, sì, costituisco un fondo che si chiamerà bonus pistola. Creerò un fondo per fare in modo che uno che vuole acquistare una pistola per la difesa a casa, sì, può ottenere dal comune 250 euro, che quindi è più o meno un terzo del costo di una pistola. Ora c'è un personaggio fantastico, caro Parenzo, favoloso, strepitoso, che è un rappresentante della fu scelta civica, da me soprannominata sciolta civica, ormai da tempo che dico sciolta civica. Si chiama Librandi, un signore anche molto ricco, un signore che sta a Saronno, qua vicino dove sono io. Un imprenditore, un signore che magari a casa c'ha pure la pistola, non lo so, dovremmo chiederglielo prima o poi. Signor Librandi, non mi sembra, il quale va in moltissime trasmissioni televisive, tantissime trasmissioni, a sostenere una tesi. Non c'è bisogno di armarsi, dice, vabbè, quello cosa di Paprio Dadda, bisognava chiamare i carabinieri, a 500 metri c'erano i carabinieri, sì, ma amico mio, a 500 metri i carabinieri, scusa caro Librandi, ma quando c'hai il ladro dentro casa non è che chiami i carabinieri che stanno a 500 metri, cioè non c'entra assolutamente nulla. E poi dice, ci sono le inferriate, ci sono i sistemi di allarme, ma i ladri se ne sbattono i coglioni dei sistemi di allarme, Librandi. Avrei cercato di fare come ha fatto il vicino di casa di questo signore che si vede nel filmato, che ha dotato la sua casa di inferriate e ha in questo modo reso più sicura la sua famiglia. Poi magari avrei chiamato i carabinieri che sono in via Cimitero numero 12, esattamente a 2 minuti, 500 metri dalla casa del signore. Sì, ma prima che arrivi dai carabinieri, a parte quello è entrato e se ne è sbattuti i coglioni dei sistemi di allarme, forse non ce li avevano neppure, poi non è obbligatorio, perché te li devi pagare da solo i sistemi di allarme, cioè costano, primo. Secondo, prima di arrivare al telefono. Beh, no, per quello ci sono degli sgravi fiscali, però. Sì, vabbè, ho capito. Che cioè, alcune finanziarie hanno messo sgravi fiscali poi, per chi. Numero due, prima che arrivi al telefono, chiami i carabinieri. Bisogna sparare, questa no, è la cosa. Se hai le armi, perché le sai usare, spari, punto. Questa è la cosa, bisogna sparare per forza. Sparare. D'altra parte, Salvini dice: in Svizzera tutti hanno l'arma, ma non è il Far West. Vabbè, sì, a parte che non sappiamo. Tutti hanno l'arma, pure questa. Anche le mucche che producono la cioccolata e il latte, Milka. In Svizzera tutti i cittadini hanno l'arma in casa. E in Svizzera non è che si prendono a pistolettate a Lugano, a Zurigo, a Berna, perché lo Stato è serio. Mitologico scontro Santanché Librandi. Senti un attimo questa roba qua, stupenda. No, l'ho visto, Santanché Librandi. Mettiamoci nei panni, stanotte a casa vostra arrivano delle persone. Ma lei allora successo. Ma che cazzate dice? Cosa fa? Cosa le cazzate? Chiede scusa, come ti chiami? Fammi vedere se sei armato. Guardi, o sei preso una sensazione di paura di difendere i tuoi cari, di difendere il tuo patrimonio. Si spara, ha sparato e ha fatto benissimo. E si chiamano le forze dell'ordine. Adesso pure sta cosa, terza versione, si spara in alto, cioè Librandi ha detto tre cose. Primo, te fai i sistemi di allarme con le inferriate, gli allarmi, eccetera, eccetera. Seconda cosa, chiami i carabinieri che stanno a 500 metri da Vaprio Dada, lì dalla casa di quello. Vabbè, d'accordo, però prima te fanno secco. Terza cosa, ha detto sparare in aria. Se proprio devi sparare, sparare in aria. Però, amico mio, ma se spari in aria, non è escluso che qualcuno ti possa sparare addosso, il signor ladro, che non si fa molti problemi, per carità. Non è che sta lì a pensare, no, forse succede che se ammazzo qualcuno vado in galera. Quando uno è ladro, è ladro. Ma e io capito, avrei sparato uguale. Vado in prima pubblicità. Si spara in alto. Ma non vado si può, in pubblicità. Ma vado in pubblicità. In testa di... Vado in pubblicità e torniamo tra poco. Aspettate un attimo. Tanto... da pazzi. Si calma un attimo che. Ha invitato Librandi a spararsi in testa, onorevole Santanchè. Beh, a spararsi in testa nel senso metaforico, ma che cioè, metaforico. Vabbè, andiamo in pubblicità. Date retta, andiamo in pubblicità. Ma sparati in testa, certo non era molto delicato. È la politica. Visto il momento. Non era delicatissima la cosa. Sparati in testa, quella aveva appena sparato al ladro. Si vergogna d'essere deputato. Perché voi piangete i morti? A casa mia, ma mia figlia è stata di fare rapinata, non abbiamo ammazzato nessuno. Hai capito? Ma cosa stai Lei dicendo? Si deve vergognare di essere un deputato ammazza. A dire queste cose. Voci da Vaprio Dadda! Voci da Vaprio Dadda! Questa è una zona tranquilla, è mai successo? No, no, tranquillissima. Qua ci conosciamo tutti, capito? Ha paura adesso? No, io non ho paura perché ci brindiamo in casa. Che entrano, li ammazziamo. Di venire dentro che li ammazziamo, sì, delinquenti. Questa, se la vedete nelle immagini, è una signora. Nonne, queste sono grandiose, guarda. Perché sono le nonnine che si eccitano a sentire Salvini e la Santa Anche. Ma che ne sai? Te, ma, adesso, pensano, ma perché devi disprezzare così queste signore? Ma questa era una tranquilla signora di Vaprio Dadda. Le nonnine Rambo. Ma ci no. chiudiamo. Venghino pure dentro. Venghino che gli spariamo. Ma scusa, cioè, sei veramente, ma sai che fai veramente schifo? Sai che fai veramente schifo? Mi fai veramente schifo. Ti rendi conto a che cosa è arrivato? Sei veramente il peggio della snobberia. C'è una vecchina di 60-70 anni intervistata che dice: sentiamo, io voglio stare dentro casa, mi voglio barricare, se entrano qui li ammazziamo. Ha detto uno è un paese tranquillo, è un posto tranquillissimo, che devi, siccome capisci quello, ha detto è un posto molto tranquillo, non abbiamo mai avuto paura. E poi uno di noi cosa farebbe? Ma perché devi disprezzare quella gente, la voce che viene dal basso? Perché? Ho detto che sì, li ammazziamo, e allora è frutto di un clima che si sta creando nel paese. Ma quale frutto? In cui state incitando, tu anche per la tua parte, perché credi sia ma giusto, figurati. Più una parte della... Come? Tu non stai dicendo che è giusto sparare? Certo, è giustissimo sparare. Che sei certo. eccitato, appunto, stai dicendo questa cosa qui, quindi giustamente... Io se abitassi in campagna metterei un cartello che ha messo una persona che conosco. In questo cartello ci sarebbe scritto: attenti al cane e al suo padrone. Vabbè, con due immagini, un cane e un revolver. E una pistola, vabbè, divertente. Li usano anche in casa Monica, questo, sai? Ma sti cazzi, ma chi se ne frega? Quindi hai la stessa mentalità qualità, evidentemente. Ma perché? È lo stesso cartello che usano i Casa Monica. Ma chi se ne frega se lo usano i Casa Monica? Io vorrei capire, Parenzo. Io sto ricevendo una telefonata da un numero sconosciuto. Lo metterei in onda perché alle 18:44, capito? Vediamo. Ah no, hanno smesso. Numero sconosciuto, alle 18:44. Sanno che sono in radio e mi chiamano e mi rompono i coglioni al cellulare. Altre voci da Vaprio, dai, Vaprio Dadda forever, vai. Ho preso 15 quintali di ferro e mi sono, come si può dire, blindato in casa. Che ha fatto questo? Ha preso 15 quintali di ferro e si è blindato in casa. Ma che è sto Vaprio Dadda? Io non lo conoscevo prima. Beh, un momento, un paese preso d'assalto anche dai rapinatori. La simpatica nonnina Rambo diceva: è un posto fino ad oggi tranquillissimo, stiamo molto bene. E poi dice: sono pronta a sparare dalla casa. E siamo tutti in giro. Tu sei disprezzi, mi fai veramente schifo perché disprezzi la gente. No, per capire quello che dicono le persone, che disprezzo. Ragiona su quel che dice la gente senza titilarli e basta. Disprezzi e basta. Ma no, ma non eccitarli e basta, va bene eccitarli. Ma senti quel che dicono. Frase fondamentale oggi, so che non interessa a nessuno. Però Parenzo sicuramente ci ha riflettuto sopra tutto il giorno. Frase fondamentale del primo ministro israeliano Netanyahu. Sì, tutto il giorno ci hai pensato, cioè, tu hai chiamato i tuoi amici, ma come possiamo reagire di fronte a queste cose? Cosa bisogna dire? Cosa non bisogna dire? Eccetera, eccetera. Allora, sembra che abbia un portavoce da sentire. Il signor Netanyahu, il primo ministro israeliano, ha detto una cosa in parte secondo me condivisibile, in parte no. Cosa ha detto? Che Hitler non voleva sterminare gli ebrei all'inizio. Correggimi, professore, ma voleva deportarli, li voleva mandare via dalla Germania, ed effettivamente è così, c'era la questione della Madagascar, eccetera, eccetera. Ha aggiunto: chi consigliò a Hitler lo sterminio degli ebrei fu il Gran Muftì di Gerusalemme, cioè furono sostanzialmente i palestinesi a suggerire l'olocausto, bruciali tutti. Questa roba qui è un missile terra-aria contro i palestinesi. Questo è l'obiettivo del signor Netanyahu, il quale ha un po' salvato Hitler, però, e questo, per questo c'è la polemica anche in Israele, no? Ha detto: in fin dei conti, fu l'altro a dare il suggerimento. Lui all'inizio li voleva solamente cacciare, l'altro gli disse: bruciali. Cioè, i palestinesi hanno voluto l'olocausto degli ebrei. Traffico. Parenzo, curalo Parenzo. Insomma, curatevi uno con l'altro che avete bisogno di cure voi due. Ciao. Stufe, caldaie e termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Zanzara. Posso dire, David, che mi fanno emozionare quelle persone che cercano di fottere le file all'Expo utilizzando i metodi più incredibili, in realtà molto semplici. Hanno assolutamente ragione, perché passeggini per fottere, con i finti bambini, esatto, passeggini con i cicciobelli sopra, il classico il cuscino messo sotto per far finta che uno è incinta, pur di fottere le file folli dell'Expo. La ridicolaggine di queste file dell'Expo, secondo alcuni, sarebbe il motivo del successo dell'Expo. Pensate un po', siamo arrivati a pensare che se c'è la fila una cosa è un successo e non una mancata organizzazione, una disorganizzazione. Siamo arrivati a pensare questo, cioè che è meglio una fila piuttosto che organizzare l'accesso all'Expo. Chi se ne frega di raggiungere 21 milioni, 22 milioni, ma l'importante è che le persone non stiano 7-8 ore in fila, cazzo, no? Ilaria, provincia di Cremona, vai. Sì, però quelle che ci vanno sanno che fanno la fila, eh? Ma non lo so se lo sanno, peggio. Ma infatti secondo me sono dei masochisti, l'ho detto più volte. Sono dei masochisti, cioè non ho nessuna pietà per quelli che fanno. Non li obbligano. Non ho alcuna pietà per quelli che fanno 6-7 ore di fila. Se la cercano. Dunque andassero a fare in culo. E quelli là che non protestassero, quelli che invece hanno il cuscino sotto sono dei grandi. Tentano di fottere l'organizzazione. Ilaria, vai. Sì, ascolta, io volevo dire una cosa a Parenzo. Dimmi. Visto che è un intellettuale, gli volevo consigliare una lettura. Ragiono con la mia testa. No, ascolta, visto che ti piace fare come il professore, fa lei? Nessun professore. Ascoltami, perlomeno la lezione, prima di darla, imparala. Allora, senta, ti consiglio di leggere Il codice delle armi e degli esplosivi, sì, del giudice Edoardo Mori, che tra l'altro era ospite a Melogo oggi, che parla delle leggi, del testo unico di pubblica sicurezza, con la giurisprudenza e i commenti, sì. Perché ti allora? Stai dicendo un sacco di sciocchezze in fatto di armi. Vabbè, però vai, che vuoi dire? Nello specifico allora, cosa? Allora, tu hai fatto confusione fra il porto d'armi e la custodia delle armi. Allora, nessuna legge mi vieta in casa mia di tenermi fuori le pistole, soprattutto di girare all'interno della mia proprietà con la pistola in tasca e il colpo in canna. Nessuna legge lo vieta. La custodia è tutta un'altra cosa. Hai l'obbligo di custodia e di tenere, cioè, dentro casa tu stai dicendo che tu stai dicendo che dentro casa uno può tenere le armi come vuole. Allora, io posso girare all'interno della mia proprietà, che sia casa, giardino, tenuta, quello che è, sì, con la pistola addosso e il colpo in canna, quindi posso tenere il mio fucile a poi pompa, tu dici che se succede qualcosa poi dici se, poi dici se succede qualcosa, ovviamente ti possono accusare di non aver tenuto bene, di non aver conservato. Non è, vero, è, non è assolutamente questo, vero, questo direi che è così, per quanto però riguarda la custodia. Cioè, se tuo figlio prende l'arma, se tuo figlio prende l'arma carica, allora, se la non prende l'arma, vabbè, per ma che c'entra in generale, dai. No, ascolta, bisogna anche valutare uno come si trova in casa. Io vivo da sola. Se io decido di tirare fuori dal mio armadio blindato tutte le mie 22 armi e spargerle intorno alla casa, la legge mi consente. Ma tu non ho capito, tu hai 22 armi? Sì, io sono un'appassionata di armi. Tu hai 22, vivi da sola? Vivi da sola, mi sembra di capire, e hai 22 armi. 22, sì, certo, ma che tipo di armi hai? Va bene, ma questo sono fucili di tutti i tipi. Io ho dalla pistola più piccola per tirare a 10 metri fino al fucile da sniper da tirare a 2000 metri. Beh, questo è bellissimo. Allora, ognuno ha le passioni che vuole. La signora abita in provincia di Cremona, cioè in campagna, immagino, no? No, abito in una bifamiliare. In una bifamiliare. Ognuno può fare le collezioni che vuole. Possiamo dire la cittadina o è troppo pericolosa? No, figuriamoci, è casa maggiore in provincia di Cremona. Io non ho niente da nascondere. I carabinieri sono venuti a casa mia, beh, certo, a immagino fare il sopralluogo, perché per io sono anche collezionista di armi. Sì. Ho la licenza di collezione, sì, per cui con la licenza di collezione sono obbligata, sì, a custodirla in un altro modo. Allora, io dico una cosa. Allora, la signora, sì, certo, non c'è dubbio, ha 22 tipi bellissimo di armi diverse, che vanno dai fucili alle pistole, immagino, no? Fucili, pistole, sì, mitragliatori, sì, che c'ha? Bazooka, che c'ha? Tra gli appassionati io sono quella che forse ne ha meno. Sì, no, d'accordo, ma che tipo di armi ha? Fucili, pistole, bazooka, delle bombe a mano? Semi automatiche, fucili o fucili ex ordinanza che hanno 100 anni, appartenuti ad eserciti stranieri, cioè sono armi. Mitra ne ha? Mitra ne ha o no? Il mitra è vietato, che ne so, gli amici. Allora, comunque, bombe a mano, magari. No, voglio, una bomba a mano, voglio avvertire i ladri che sono all'ascolto. Ci sono tanti ladri che ascoltano la Zanzara, Parenzo, questo lo devi sapere. Questo è sicuro. Abbiamo fatto delle statistiche, delle ricerche personali. Io ho allarmi e inferiati. Ci sono un sacco di delinquenti. Non ho gli allarmi, perché la cosa più importante è non farli entrare. Vabbè, ragazzi, che ce frega adesso? Allora, la cosa principale che voglio fare è questa, l'annuncio è questo. I signori ladri che ci ascoltano, tanti, perché abbiamo fatto le nostre indagini, ci sono un sacco di delinquenti che ascoltano questa trasmissione, ma io sono contento. Cioè, famiglie di delinquenti, gente che, appassionati anche di Parenzo, sono molti ammiratori di Parenzo tra questi ladri, per esempio. Ladri e delinquenti, molti no, molti ammirano Parenzo, te lo dico, abbiamo fatto un sondaggio, Parenzo, te lo faccio confermare. La sua simpatia. Allora, certe categorie per forza lo ammirano. Ecco, vedi, allora, quello che pensa che io difendo i criminali, cosa vabbè, che ma non ho detto questo, ho detto semplicemente che hanno simpatia per le tue posizioni. La simpatica sciocca pensa che io difenda i criminali. Allora, la sciocca intanto lo dici magari a qualcuno. La sciocchina, dico, come si chiama? Ma neanche, la signora ingenua, come si dice? Io esprimo dei concetti, ma anch'io, non offendo, anch'io dico la signora, allora, dico la semplicemente, signora ingenua sostiene che io difendo i criminali. Non avvicinatevi a Casal Maggiore. Ecco. Non andate a Casal Maggiore perché c'è la signora Ilaria che se vi avvicinate da quelle parti, adesso non possiamo dire la via per motivi di privacy, naturalmente. Beh, sì, altrimenti scatenare una guerra. Esatto, tieni molte armi, magari potrebbero rubarle. Non vi avvicinate, sì, perché altrimenti, non credo che uscite vivi da quell'abitazione. No. Ma lei che cosa farebbe se a un certo punto scoprisse durante la notte che qualcuno sta con un piede di porco, se ancora si utilizza, che ne so, con una chiave? Allora, io ho un che tipo succede? Di che succede? Sì, vabbè, lasciamo perdere il sistema d'allarme. Prima che il ladro si accorga, l'allarme è già partito. Vabbè, mettiamo che quello là insiste, vuole entrare dentro casa. Lei che fa? Se quello insiste, si trova un po' in difficoltà sicuramente. Allora, io non che mi fa? Ci sono che mai fa? Ma allora, quello che faccio lo posso sapere solamente nel momento in cui sì, ma l'idea sua è che può sparare tranquillamente. Ma non sparo per aria, come ha detto quell'altro pagliaccio, anche perché in una casa, se tu ti trovi un ladro davanti e spari per aria, fai un buco nel soffitto. E che cosa ottieni? Di far vedere al ladro che tu hai paura. Se tu gli fai vedere che hai paura, lui ti disarma in un attimo. Nel momento in cui una persona dunque sparare in aria è una cazzata, è una cazzata se sei sei all'interno. Ma infatti, Librandi, ascolta, Librandi, è una cazzata. Ma infatti, nessuno ha detto che uno non si può difendere. Allora, ma guarda, non posso è tutto falsato questo dibattito. Ma fammi, fai rispondere Ilario un attimo. Ma no, perché nessuno ha sostenuto che uno non può sparare. Esiste la possibilità di sparare, ma nessuno l'ha messo in discussione. Io non posso permettere ad un ladro di avvicinarsi a me, perché comunque se un uomo mi prende per la gola io sono morta. Ma io infatti può difendersi di sì, un attimo. Ma sono palle che raccontate, non è così. Ma stai scherzando? Ma lei si può difendere. Esiste la... Dimmelo. Nessun giudice condannerà mai chi si difende. È successo, state dicendo stupidaggini. È successo. Nonostante quello che dici tu è successo. Ragazzi, avanti, ci sentiamo dopo il giornale radio. Vai. I love you. I like. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presenta La Zanzara. Siamo al top, ragazzi! Siamo ad alti livelli qua, Come dimenticare, caro David, l'intervento ieri qui alla Zanzara del sindaco di Albettone, provincia di Vicenza. Come no. Joe Formaggio, oggi ripreso da moltissimi siti, moltissimi giornali, non solo locali. Un altro genio proprio. Un personaggio che si è espresso in un modo sobrio, definirei sobrio. Per esempio, quando dice... Beh, che le persone che vanno, anzi no, le persone che tentano di introdursi, che potrebbero tentare di introdursi a casa sua, a casa Formaggio, troverebbero un signore molto determinato perché lui sparerebbe in testa. Siccome abita al primo piano, no, e quindi deve arrampicarsi per la terrazza, gli sparo in testa e si trova le cervella dentro le scarpe a ginnastica. Beh, direi che questa è un'espressione abbastanza plastica, no? Classe dirigente, cioè, questa. Gli sparo in testa, signore di Fratelli d'Italia, gli classe sparo dirigente, in testa, sì, sì, sì. E si trova le cervella nelle scarpe. I ladri, gli zingari, dice lui, vanno istruiti, però capiscono solo le pistolettate. Ma bisogna cominciare a istruirli sti qua, e l'unica legge che capiscono sono le pistolettate che uno gli tira dietro, perché non capiscono nient'altro. Quindi continuiamo, che ci siano casi così, perché abbattiamo la delinquenza. Più morti, i morti servono. No, i morti, ma incita anche alle rapine in casa, paradossalmente. Tu pensa ai parenti di questo signore? Scusa, le rapine in casa, come incita alle rapine in che, casa? Chissà che ci siano tanti casi come questo, cioè di incidenti in cui muore un ladro, più, no? Più morti ci sono, e più questi qua imparano, che imparano, è come di, che è e come devono di, stare lontani dalle case. Ecco, più morti, cioè, quindi però vuol dire, pensa come si può sentire comunque il pensionato che ha sparato, quella famiglia che sente un sindaco che dice bene, bene, evviva, tanti casi come questo. Cioè non è che il pensionato che ha sparato è contento di averlo ucciso. Sembra di no. Perché questi criminali politici stanno facendo passare questo messaggio. Cioè fanno passare Vabbè, il pensionato difesa, come un difesa, eroe. No, no, è molto più... Fanno passare il pensionato che comunque avrà un suo turbamento sicuro, perché è una persona normale, non è un idiota, non è un Rambo, è una persona che evidentemente ha avuto un momento un di paura. Ma certo non si ma pente, sicuro, non, ha ucciso uno, non è dispiaciuto. Ma che ne sai perché te? Perché tu sei dispiaciuto dalla morte di questo, di la verità. Fammelo sei dispiaciuto dire, per la morte? Sì, molto dispiaciuto. Ma veramente, tu sei dispiaciuto vuoi, per la morte? Sì. No, se vuoi. Piacere, posso no, dire sì. Ma no, ma non fare il buffone con se me. Se vuoi, ti sì, è una sì, domanda, faccio il buffone voglio, con te perché dici stronzate. Voglio una domanda, una risposta ma normale. Dici voglio una risposta ti faccio normale. Felice, sì, sono molto dispiaciuto Vabbè, per la morte guarda di che era una domanda, ladro. Era una domanda ma non è normale. Una domanda da fare. Sei dispiaciuto uno, o no? Ma uno può essere dispiaciuto per la morte di un ladro? Ma che roba è? Ma è evidente che... Ma cosa vuol dire dispiaciuto per la morte di un ladro? Magari non è dispiaciuto per la morte di un essere umano, perché i ladri vanno ammazzati? I ladri vanno ammazzati? Allora sì, sono dispiaciuto per la morte di un ladro. Ma non è questo il punto, non mi interessa neanche discutere di come non mi sento. Tu sei dispiaciuto per la morte del ladro? No. Quindi tutti i ladri vanno ammazzati? No, se uno muore. Quindi tutti i ladri vanno ammazzati? No, assolutamente quindi, no. Oppure vanno ammazzati quei ladri? Se uno muore, non mi dispiace, va bene se così. Se uno muore, va bene non così. Mi non mi dispiace, sì. Io non. Sì. tu non hai idee, non ti vuoi esprimere. Sì, ma non era quello. Ma chi se ne frega di cosa penso? Non sono dispiaciuto di quello. Punto. Ma non sai che sono dispiaciuto io. Sono convinto che questo qui che ha ucciso una persona, anche se era un ladro, comunque non è lì felice che ha detto cazzo, l'ho ucciso. Adesso per difesa dice questi che non è qui contento. Fanno ma è evidente. Ma insomma, nessuno che uccide un'altra persona sarà contento, a meno che non sia un criminale. Siccome il pensionato non è un criminale. Siccome il pensionato è un criminale, quindi non ha una vocazione a uccidere, Non sarà contento perché non è un criminale, credo. Siete criminali. Questo era Scilipoti, veramente. Sempre Gio Formaggio, vai con le armi che hai in casa. Non credo che tu esattamente tieni sotto il cuscino il fucile o la pistola. Innanzitutto, quante armi hai in casa? È a mezzo metro dal letto. Sta commettendo. Vicino al letto i proiettili sono sopra il comodino. Vabbè, ragazzi, andiamo a Lecco, Carlo, vai. Gianni, no, volevo dire. Per quella persona che ha detto che prima bisogna sparare in aria, io durante il servizio militare, quella sera che mi hanno fatto fare la guardia a uno spoletificio, avevano detto, signori, siccome non si deve avvicinare nessuno, la norma dice prima sparate in aria, poi sparate. Sì. E poi ci dice, signori, non fate i coglioni, prima gli sparate, poi sparate in aria. Ma è normale che sia così, sparare in aria non serve un cazzo ormai, cioè non serve appunto. A nulla. Serve a nulla, cioè nel senso può servire, se quell'altro non è armato si può mettere paura, sì, ma insomma bisogna ragionare molto, bisogna essere molto preparati. Ma d'altra parte chi possiede un'arma dovrebbe prepararsi adeguatamente, dovrebbe seguire dei corsi, eccetera, eccetera. Io per questo, perché non avrei tempo di seguire dei corsi, di addestrarmi. Ma magari anche perché non avresti coraggio di sparare. No, quindi, ma magari mi verrebbe il coraggio, ma non ce l'ho perché non me la compro, a parte che non avrei diritto probabilmente. Perché sei stato un ubriaco, un drogato. No, non avrei diritto, non è che hai precedenti tutti, penali. Non lo danno a tutti, ci deve essere un motivo valido per comprare un'arma. No, dipende, se tu non hai precedenti penali. Ma no, devi fare dei mestieri particolari, altrimenti non è che la danno a tutti. Non è tutti questi simpatici Rambo chiamano. No, il porto d'armi lo danno a delle persone per motivi. Signore lì che non eravamo dei rambi, lì si trattava della vita. Siccome era vietato avvicinarsi, ti dicevano: signore, se si avvicina qualcuno, sparate. Carlo, grazie. Fabio Perugia, vai. Fabio. Eccomi, buonasera. Dimmi. Volevo intervenire sempre per questo motivo di cui state discutendo con questa sera. Ma avete mai subito, non certo te o il tuo collega, dei furti di notte, alle 3 di notte? No, ma io per fortuna mai, non lo so, Parenzo lo dovrà. Una volta prima, forse a Padova, sì, ma non in casa. Giusto, non è giusto. Provate a vivere una situazione di questo genere. E poi chi ha la possibilità di avere una pistola, un bastone, si difende con quello che ha. Sì, è allora, chiaro che questo lo sappiamo, o si difende o non si difende, oppure te la fai sotto, punto e basta. Quella potrebbe essere sotto, la reazione, dato no? Che l'adrenalina, fatelo dire a me che l'ho provato, l'adrenalina va a mille, va a mille. Certo. C'hai i tuoi figli, c'hai tua moglie, c'hai tua madre, che stanno lì e rischiano di essere malmenati, o perché per le stragrandi altre volte possono scappare, cioè nel momento che si accorgono che tu sei svegliato scappano, ma se no ti fanno passare 5 minuti brutti. Chi ha un qualcosa, la possibilità di sparare, spara. E non è che lo fa apposta, è una difesa, una cosa. No, ma questo lo sappiamo tutti, dai, lo sappiamo tutti. Parenzo insiste allora a dire che è tutto già previsto. Secondo me non è tutto già previsto. Come no? Non è ma tutto che già previsto. Previsto. Ma, non ma ci sono norme nuove che uno può fare per dire hai diritto di sparare in casa. Ma perché? Ma ascolta, non esistono. Ma io alle 3 di notte non t'ho invitato a prendere il caffè. Ma non ci dubbio, infatti, tu ti puoi difendere se viene uno a casa tua. Ma guarda che forse non ci siamo capiti. Comunque, quello che provo a sostenere è che lì, in tutti questi casi, che succede? C'è un morto. Un giudice che cosa fa? Perché deve farlo? Apre un procedimento per accertare come è morto. Quello dice l'ho ucciso perché è entrato in casa. Bene, non sarà condannato molto molto molto probabilmente, ma perché avrà la possibilità di opporre. C'è gente che passa 6-7 anni. No, la legittima difesa. A dimostrare che c'è la legittima difesa. La legittima. Perché bisogna c'è un morto. Bisogna eliminare eccesso di legittima difesa. Ma non è che si può eliminare, a parte che non è quello il reato da eliminare, perché in questo caso gli hanno dato l'omicidio volontario. Vabbè, poi c'è l'omicidio colposo. No, perché sono talmente tante fattispecie che capito, se uno muore. Vabbè, allora, il problema è, qual è cosa faresti tu? L'autodifesa. Facilitare l'autodifesa. C'è già, c'è ma l'autodifesa. Non è così, ma non è così. Dai, non è così. Non è così. Ah. frase fondamentale dello sgarbone, eh? Poi magari lo chiamiamo, eh? Vorrei approfondire questa cosa. Frase fondamentale dello sgarbone. No, no, no, qui è i pilastri della. Come erano quel romanzo lì? I pilastri della. Quello di Ken Follett. Come si chiama? I pilastri. I quattro pilastri della terra, credo. No, no, non mi ricordo. Allora, per me l'acciuga è come andato a una festival, a una roba dell'acciuga. A una roba dell'acciuga. Per me l'acciuga è come, non si sente benissimo, ma è un pilastro fondamentale della vita, direi, quasi della vita. Per me l'acciuga è come la figa. È lo stesso sentimento che provo. Ed è quello che diceva Ciccio Ingrassia nel film La Marcord. Voglio una donna, voglio l'acciuga, voglio l'acciuga, voglio l'acciuga. L'acciuga è come la figa, poi altra spiegazione sgarbiana, in giallo. Senti, senti. Poi l'acciuga è meravigliosa, senza pelo, senza pelo. Io preferisco quell'altra, la preferisco col pelo, ma l'acciuga non c'è una condivisione. La dicotomia offre ballare. L'acciuga la preferisco senza pelo, invece quell'altro col pelo. Cioè, le preferenze di Sgarbi sono la patonza, la figa col pelo e l'acciuga invece senza pelo. Frase fondamentale. Allora, ci sono delle novità. Ero in cucina, dice il pensionato al pubblico ministero, il signor Sicignano, 65 anni indagato. Secondo la procura, il colpo è stato sparato dall'alto sulle scale, dall'alto. Tu capisci, no? I dettagli sono importanti, per carità, perché altrimenti non esisterebbero le indagini, no? Però la cosa curiosa, poi si deciderà se è omicidio colposo. Intanto è omicidio volontario. È omicidio volontario, se è eccesso di legittima difesa, se non è nulla, vedremo. La vittima era armata solo di torcia, cazzi suoi, dico, perché uno va armato solo di torcia a fare i tuoi. Infatti, per esiste la legittima difesa. Per gli inquirenti, oggettiva. Potrebbe essere stata uccisa ancora prima di entrare in casa. Ora qui vedrai che questo signore qua avrà casini, perché questo qua non era ancora entrato in casa. E infatti per questo esiste la legittima difesa putativa. Vabbè, si senti, chiama. Però qui non stiamo al foro. Allora, aspetta, allora, aveva 22. Allora diciamo sì, che... ma valla a fare a porta a porta. Aveva 22 anni. A porta a porta, almeno di che l'indagine doveva essere fatta per forza, perché sì, lo sappiamo. È... Lo sappiamo. No, ma almeno dillo. Lo sappiamo, allora, lo sappiamo. E allora se lo sappiamo di che cazzo sappiamo, stiamo parlando? Detto. Aspetta, un'altra cosa interessante. Scusa. Aveva 22 anni questo signore? Aveva 22 anni. E precedenti penali? No, non solo. Era già stato espulso. Era stato espulso nel 2013. Certo, cittadino albanese con precedenti. Ma quello era un criminale, ovvio che era un espulso criminale. Espulso nel 2013. Che cazzo di fine aveva fatto dal 2013 in poi? Guarda che c'è gente strana in giro, c'è gente strana in giro. All'inizio, ma neanche se stati. All'inizio, quando iniziò la loro missione, era direttivo. L'ho fatta sentire a tutti gli amici. Un po' alla volta ti sei proprio degradato. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Attenzione, attenzione, amico mio. Sometimes I give myself the creeps. Crozza e il canone, perché Salvini ha detto di non pagare il canone. Stupendo, se ne fotte stupendo. Del canone, Crozza. Salvini ha dichiarato che non pagherà il canone TV in bolletta. Ma come? Proprio lei, Salvini, che negli studi televisivi ci vive. Rosa di Salvini dice che andrà da Mattielli sabato. Beh, non mi stupisce, Hermes Mattielli, che è quello che è stato condannato a 5 anni e tot mesi e 135.000 euro di risarcimento a due nomadi che erano entrati dentro il suo magazzino per duplice tentato omicidio, perché non sono morti quelli là all'epoca, era il 2006, ma è stato condannato dopo 10 anni, peraltro, come al solito, 10 anni di processo a 5 anni e 4 mesi o 2 mesi, non mi ricordo, e 135.000 euro. Sabato andrà Salvini da Mattielli. Abbiamo già sentito cosa. C'è già tanti problemi quello pure. No, Salvini, però Mattiele è contento. L'altro giorno ce l'ha detto. Ah, è vero, sì, sì, è contento. Ha detto che è molto salviniano, che gli piace Salvini. Cioè, normale, però una persona ha bisogno di sostegno, che sia Salvini a darglielo, che sia Hitler, che sia Netanyahu, che sia il Gran Mufti di Gerusalemme. Adesso che sia qualcun non so altro. Se Netanyahu, scusami, pazienza, dà sostegno al comunque, simpatico, guarda, signore. Io sono sicuro che a prescindere dai palestinesi, in Israele tutti questi cazzi che noi ci facciamo sulla difesa, eccetera, non esistono. Tu possiedi un'arma, spari e fai il comodo tuo a casa tua. Questo, beh, è certo. No, guarda, è un principio fondamentale. Non è, vai a indagare. Esattamente vai così. A indagare e vedrai che è così. Infatti non mi risultano sparatorie per le strade. Beh, così, perché diciamo, la gente magari quando sa che qualcuno ti può rincorrere a sparare, dai. No, intanto la gente sa sparare tutta, perché come sappiamo fanno il servizio militare obbligatorio, ottimo, no? Ottimo. Siccome il servizio militare obbligatorio per 3 anni in Israele, sanno sparare tutti. Allora, vero. Guarda, i motivi per cui questo signore di 65 anni di siciliano, vabbè, amico mio, ma che scusa, allora, ho capito. I motivi per cui passerà i guai sono esattamente questi. È morto per un colpo di pistola al cuore, sparato frontalmente, sì, ma dall'alto verso il basso. Cioè, questo qua era magari sul pianerottolo, lì sul balcone, ha sparato a quello là. Nel dove e come è successo, la chiave di lettura dell'omicidio di Vaprio Dadda. Ho sparato in cucina, ho visto un'ombra che si avvicinava con l'intenzione di aggredirmi, ho avuto paura. Ma se avessi saputo che l'uomo era disarmato, non gli avrei sparato addosso mai in aria. Così dice, naturalmente qui c'è la difesa che conta, questo avrà parlato con l'avvocato, eccetera, eccetera. E sono le frasi del pensionato. Per la procura, che non crede alla ricostruzione dell'uomo, il giovane è stato invece ucciso sulle scale, mentre ancora saliva verso l'abitazione del 65enne. Impossibile, secondo gli inquirenti, che il giovane colpito possa essere riuscito a trascinarsi fino a dove stato trovato. Cioè, questi alla fine, tu lo vedi, che lo vogliono incastrare. No, non è che lo vogliono incastrare. Lo vogliono, sì, ma lo vogliono incastrare. Io posso dire una cosa, io lo so che le indagini devono essere fatte, ma se quello ha sparato dall'alto al basso, se quello ha sparato mentre quello saliva sulle scale o dentro casa, ma che cosa cambia? Ma ci sono attenuanti, infatti esistono le attenuanti. Non cambia niente. Esiste la possibilità di essere scriminati in entrambi i casi. Sì, ma scriminati, lo usano gli avvocati, tu sei fatto. Ma ho capito, allora, ok, mio. Esiste la possibilità di non andare neanche a processo, di essere assolti in entrambi i casi. Vabbè, perché non hai capito, è previsto questo che voglio dire. La cosa fondamentale non, è questa. Ma la cosa fondamentale è che non ci sarà mai una norma. O hai sparato mentre è dentro casa. Perché ma dovrai accertare come è morto, però. Ma o è no? Morto perché voleva, era uno che doveva essere espulso nel 2013 e stava per entrare a casa di signori pacifici. Ma nessuno che mette in discussione questa roba. Basta, chiudiamo tutto. Chiudiamo le indagini, non c'è più nulla da fare. Chiudiamo tutto. Francesco da Roma, perché uno deve avere una rottura di coglioni? Quello stava entrando a casa, era un criminale, sì. Aveva perché precedenti, non sì. Siamo in Arabia, dai, Saudita, su, è molto semplice. Non aveva siamo in Arabia Saudita. Sì, era, doveva essere cacciato nel 2013, sì. Era stato espulso, sì. Perché secondo ma di te che cosa stiamo parlando? Secondo te in Francia, in parliamo? Germania non avrebbero aperto un procedimento? Francesco da Roma, perché secondo te questo in Francia e Germania? Sindaco di Vaprio Dadda, sindaco di Vaprio Dadda, questo pensionato, sindaco di Vaprio Dadda, Francesco da Roma, dai. Ragazzi, sì, pronto, provocati? Dai, forza. Dimmi, pronto? Caro. Dimmi, caro, dimmi. Tutti provocati? Tutti provocati cosa? Che stai, no, tutti stai... convocati. Grazie per la provocazione, molto gentili. Tutti convocati, convocati, che cazzo vuol dire? Il programma no, di Gai? Mi scusa, pensavo fosse tutti provocati. Ma che, Radio DJ, che cosa? Chi sei? Ciao, belli. No, c'è sempre una trasmissione alle 24, dove ringraziano sempre per la provocazione, vedo che interviene anche lei, pensavo fosse la stessa. Vabbè, Francesco, vai, forza. A proposito del Barracciu, sì. Delle dimissioni, sì. Questo grande gesto che non è di grande, proprio non ha niente, la meschinità più assoluta, camuffata... Ricordiamo che il sottosegretario, non so a che, all'istruzione, a che cos'era la Barracciu? Alla cultura. Poi tra l'altro non si capisce bene per quale motivo uno faceva il candidato alla presidenza della regione Sardegna, come era la Barracciu. Ha vinto le primarie. Ha vinto le primarie sotto inchiesta e poi è stata paracadutata a Roma, essendo stata poi cacciata da Renzi sostanzialmente. Forse per il rinvio a giudizio. Per il rinvio a giudizio, d'accordo. Ecco, prima era indagata, ma è stata nominata sottosegretario, non si capisce perché poi alla cultura, cioè non mi pare una... Ai beni culturali. Si vanta anche di aver lavorato molto, di essersi impegnata molto, ma vabbè, è tutto non così. Si rendono conto, no, ma è assurdo, cascano dal pero. Cioè, è incredibile, se non dovevano permettersi. Però scusami, adesso Francesco, Francesco, scusa, tu adesso stai criticando però una cosa che dovrebbe essere positiva dal tuo punto di vista, cioè il fatto che oggi, dopo il rinvio a giudizio, questa qua si è dimessa. Cioè, ma no, ma questo mi sta bene per un normale cittadino, non mi sta bene per un politico. Dobbiamo smettere, i politici devono essere però, i nostri sudditi, il sovrano, il cittadino. Quando diventi politico devi fare il suddito, se no un sovrano, noi come facciamo a essere sovrani se non abbiamo sudditi? Questa è molto grillina come cosa. È molto grillina come cosa, eh? È molto grillina, cioè devono essere dipendenti. Tu hai tradotto il dipendenti in sudditi. Cioè... Io prendo la Costituzione, faccio un discorso civico costituzionale. Stanno modificando la Costituzione illegittimamente. Vabbè, adesso prenderanno una scopola di quelle che si ricorderanno tutta la vita con referendum confermativo, perché gli italiani vedremo. Difesa la Costituzione. Allora, per far passare questo discorso c'è gente addirittura, ah ma che bravi, finalmente si è dimessa perché ha avuto la cosa ufficiale, ma doveva dimettersi prima, non doveva essersi neanche nominata. Renzi si dovrebbe dimettere con lei, si dovrebbe vergognare. Ma perché Renzi si dovrebbe dimettere, spiegami? Perché l'ha nominata lui, ha nominato una persona sotto inchiesta per dargli il consentino per non rischiare la regione Sardegna, perché oggi in Sardegna se lei fosse... Visto però scusa Francesco, Renzi, adesso per carità, uno poi può dire si deve dimettere per mille cose. È vero quello che penso di aver capito che sta per dire questo signore. Cioè dice, siccome era già sotto indagine, sì, non l'hanno fatta candidare alla Sardegna per paura che poi con il rinvio a giudizio fosse obbligata a dimettersi. Sì, e quindi gli hanno dato, quindi è vera la ricostruzione che lui fa. Esatto. Gli hanno dato il contentino del sottosegretario. È vero, questo è... Hanno paura di farci votare, siamo in una finta democrazia. Non questo non c'è dubbio. Questo, no, ha ragione. Questo non è vero, ha ragione Francesco. Ha ragione Francesco. La legge che c'è ferma in Parlamento, quella che entrerebbe in gioco se andassimo a votare domani, è quella che ci hanno rubato nel 91 con la complicità di Cossiga. Adesso Francesco, deriva dalla vincita del referendum sulla preferenza unica. Vabbè Francesco, grazie, ciao. Ciao ragazzi. Dimmi. Allora vi spiego un paio di cose. Cominciamo dai carabinieri. I carabinieri al 75% delle caserme italiane lavora a mezza giornata, quindi anche fosse a 500 metri non intervengono mai. A, B, gli allarmi ci sono, i distorsori, quindi qualsiasi allarme di casa può essere inserito. C, le sbarre, quelle di ferro, hanno dei frullini diamantati che si aprono in 20 secondi. È successo a me. Quindi queste sono tutte cazzate. Ma certo che sono cazzate. Cioè, naturalmente è giusto che uno si protegga al di là delle armi, queste evidenti. Non è che dico che tutti devono essere armati. Se io prendo un ladro in casa e lo picchio, prendo percosse. Se lo chiudo dentro, prendo sequestro di persona. È chiaro questo? Non ho capito, no, spiegami bene. Te lo spiego bene io come funziona. Se io prendo un ladro in casa e lo picchio con le mani, prendo percosse. Lo sapevate questo voi che fate tanti fighi? Ma non è così, dipende, ma non è vero. No, te sta zitto, che te sta zitto su a me. Ma chiedete a chiunque però, perché sennò veramente sembra che stiamo dicendo. Faccio sicurezza, lo dico io. Se tu picchi una persona in casa, prendi percorse. Vabbè, dipende, poi dai, non è sempre così. Non è che se picchi un ladro, in casa ti accusano di percosse. No, probabilmente l'avvocato dei ladri poi ti porta in tribunale per percosse, non c'è dubbio. È successo a me. Cioè, che ti è successo? Non ho capito, che ti è successo? Se lo chiudi in bagno, è sequestro di persona, lo sai? Se lo chiudi in bagno? È sequestro di persona. Vabbè, ho capito, ma non è sempre così. Hanno ragione, la gente deve stare tranquilla, la gente spende i soldi per vivere, comprarsi una casa, a casa sua, deve stare tranquillo, non mi devi rompere i coglioni, è chiaro? Te a casa mia non entri. Valerio, io sono d'accordo con te, ma nessuno vuole difendere chi entra in Valerio, casa. Dimmi una cosa, tu hai armi in casa? Io non ci vuole armi, io sono andato via una mattina alle 11 con mia moglie e mio figlio a mangiare, con allarmi e telecamere, e sbarra alla finestra. Sì. Sono entrati, hanno svaligiato casa, ho chiamato i carabinieri, dopo 2 ore e mezzo che si facevano i non so cosa in giro, c'erano le impronte digitali sulla finestra, e non avevano risposto? Cosa? Ma dove vuoi che li troviamo? Vabbè, quello succede sempre, Quindi alla fine la gente fa bene a difendersi, perché tu lavori una vita per casa tua. Sì, No, ma oggi è vero, non che c'è purtroppo... più la delinquenza, non c'è più la delinquenza una volta che entra dentro, ti ruba, va via. Oggi termina, te gonfia, te scopre tua moglie e te mata di fioli. Hanno ragione a difendersi. No, ma io sono d'accordo con te, però non si può nemmeno immaginare una società, se non una società che abbiamo visto solamente nei film di fantascienza, sì, eccetera, eccetera. Non devi entrare, vai, no, a fatica, oh. No, ma io sono d'accordo, per cui io metterei... Collare di esplosivo, entri in Italia un mese, o lavori o stimolo l'interruttore. Non me ne frega un cazzo, tu non puoi stare in Italia a rompere i coglioni a noi che fatichiamo dalla mattina alla sera per portare a casa un pezzo di pane. Ciao Valerio, ciao, ciao. Ragazzi, finora non abbiamo parlato, Parenzo, di una cosa, non abbiamo parlato della vicenda del Papa, sì, cosa più incredibile è questa, che il Vaticano parla di, dopo il bellissimo scoop fatto dagli amici di Il Giorno e dal direttore Cangini, che hanno fatto questo scoop mondiale del Papa, che secondo loro ovviamente si è ammalato di cancro, tumore benigno al cervello. La notizia, ovviamente, secondo che loro dicono di avere da più di qualche mese, peraltro. Sì, sì, notizia. Perché da qualche oggi mese ho sentito il direttore. Il Vaticano dice irresponsabili. Ma irresponsabili di che? Di che cosa? Cioè, quelli fanno il mestiere loro, amico mio. Cioè, tu hai smentito dicendo che il Papa sta bene. E siamo tutti contenti che il Papa stia bene, per carità. Però quelli hanno una notizia. E per pubblicare una notizia del genere, cioè del Papa che ha il tumore al cervello, che ha avuto un tumore al cervello benigno, amico mio, devi controllare, non c'è 250 fonti prima, dunque che irresponsabili, sì, sì, hanno fatto benissimo, benissimo. Saremmo dei matti se a pubblicare una notizia del genere se non fossimo più che sicuri della sua fondatezza. Sì, dimmi. Noi, il suo Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, Il Quotidiano Nazionale, non sono giornali che... Ci sei? Sì, eccolo. Sempre in viaggio, amico mio, sempre in viaggio. Dove va? Dove va? In viaggio nello Sgarbistan, che è il territorio in cui mi muovo. Lo Sgarbistan. Una porzione di Italia e di altri luoghi che ho portato nel mio dominio. Allora, Vittorio, io ho sentito nei giorni scorsi una roba che hai detto sulle acciughe, cioè hai paragonato le acciughe. Sì, le acciughe alla figa. Cioè, spiegami un attimo. Adesso io non volevo essere così estremo, qualcuno mi ha detto anche che mi hanno riproverato di usare un lessico. Ormai questo lessico è anche della letteratura, però il concetto è questo. Sì. Qual è il dramma del nostro tempo? Qual è? Che gran parte delle donne negli ultimi 20 anni si depilano. È vero. Come se quella parte del corpo dovesse essere liscia, quando invece, se Dio l'ha fatta pelosa, ci sarà una ragione. Bravo, è legata bravo a tante. Ecco, allora io sono per la persistenza del pelo. Sì. Invece trovi molte donne che non ce l'hanno più. E le acciughe, sì, che sono andato a vedere questo museo dell'acciuga, delle sardine, vicino a Palermo, in un luogo che si chiama Aspra, sì, bellissimo, sì, dove producono le acciughe. Quando, finita la visita, chiedo di mangiare le acciughe, per la verità io non mangio pesce, ma sono le cose che prediligo, perché hanno quel sapore potente. Poi fanno bene, fanno bene alla voce anche. Fanno bene alla voce, tutto questo, mi accorgo che hanno una variante molto insolita e molto positiva, che non hanno il pelo. Sono state preparate togliendo tutti quei peluzzi che rendono l'acciuga nuovamente un pochino scomoda. Sì. Allora ho detto, questo è il teorema, la F con il pelo e l'acciuga senza. L'acciuga, sì, che assomiglia, tanto che la chiamerei acciga, l'acciga, sì, assomiglia alla A e l'acciga deve essere senza pelo. La invece deve essere con il pelo. Vabbè, ma diciamolo, la figa. No, vedi, anche Sgarbi giustamente si trattiene, ha ragione. Ma che si trattiene? Ma la figa è la figa, ragazzi. No, mi trattengo nel senso che mi è arrivato un messaggio di una signora di Messina che mi segue molto, cioè, stai lì sempre a dire delle parolacce, esatto, su Facebook. Ma scusate, ma adesso diciamo la verità, figa non è mica una parolaccia, cioè figa è la figa, punto, sì, bene. Sì, perché sì, bisogna dirla così, però. Ma la figa, cioè l'essere gli organi genitali femminili. La conosciamo tutti. Scusa, ma non ho capito. Perché tu sei così appassionato come me, peraltro, del pelo lungo, diciamo, no? Del pelo. Ma cioè non so dirti perché, però mi sembra che se la figlia è nata così ci sarà una ragione. Cioè ci sarà una ragione, so, perché prima... liscia è un po' oscena, liscia. Cioè, liscia oscena, sì, come sì, uno sì, pelato, no? Sì. Uno che ha i capelli sono giù perché è pelato, e, insomma, è interessante che uno sia pelato, ma non è la condizione ideale. Ora, queste che hanno il pelo, perché se lo tolgono? tabù. Ma lo tolgono perché per, dicono per igiene, dicono se per se vogliono sembrare delle acciughe, ma noi le acciughe le vogliamo senza pelo. Senti, ma se tu sei armato per caso, cioè, questa storia delle armi ti interessa, no? La gente che spara. Ma quando io rientro a casa di notte e c'è Sabrina che dorme, sì. Lei fa poche volte. Dei soprassalti, come se fosse aggredito ad uno che vuole violentarlo. Allora tu stai lì che dormi, c'è uno che entra all'improvviso e può farti qualunque cosa, può ucciderti. Cioè la reazione non è sproporzionata, esatto. È psicologicamente legata al fatto che casa tua è casa tua, non è che uno ci entra dentro. Io stesso appaio un estraneo e lei urla, hai capito? Cioè, è quello perché sei tornato. Chi ha paura, proprio paura, la paura. Per cui è giustificato, per cui è giustificato qualcuno che reagisce magari in maniera eccessiva, spara e ammazza. Perché non reagisce razionalmente, non fai che può parlare con l'altro che magari è un intellettuale sofisticato, sì. Pensa che è pericoloso e può ucciderlo. Senti una cosa, ma come sei messo a tasse? Quanto devi al fisco in generale? Io devo al fisco, avevo fatto una rateizzazione con Equitalia, ma mi pare sbagliato pagare. No, ma in generale quanto hai da dare ancora? No, non solo dare 200-300 mila euro a rate, ma non voglio dare una lira se devo pagare lo stipendio a Verdini. No, che c'entra adesso? Cioè, Marino. Come? Non è possibile, cioè io pago delle tasse perché lo Stato le usi per stipendiare della gente che tradisce il mandato che dovrebbe rappresentare me. Devo pagarle anche per Di Battista, devo pagarle anche per Di Maio, devo pagarle anche per... Perché devo pagare le tasse per Di Battista? Cioè non voglio pagare per qualcuno che è lì, non per me, ma per sé, e io gli do anche lo stipendio. Sei già lì, non rompere il cazzo, stacci gratis. Ciao Vittorio, ciao. Però io sono vittoriano da questo punto di vista, sono sgarbiano anche in questo, anche sul pelo sono sgarbiano. Non so tu le tue preferenze da questo punto di vista come sono, ma non le dirai, certamente no, non le dirai, non le voglio dire, non le voglio dire, sì, non mi piace dire se mi piace col pelo o senza pelo, non si possono rivelare certe cose, bisogna mantenere una plomb, un distacco, bisogna mantenere un distacco, non si possono dire queste cose. No, ma semplicemente non mi diverte dirlo. Non ti diverte dirlo. Va bene, dirlo. Dai, ti faccio contento. Fammi contento. Adesso Antonio Zecchini, amico mio, detto il mutante, io capisco che non ricevo le telefonate da Napolitano, ma meglio Antonio Zecchini di Napolitano. Devo dire. Ognuno c'ha allora, chi sono in trasmissione in diretta, caro Antonio Zecchini. Immagino, amico Ermutanda, detto una volta Ermutanda, che continua a chiamarmi senza capire che sono in diretta, caro Zecchini. Ti voglio bene, sei bravo, eccetera, eccetera. Ti volevi candidare in Campania, eccetera. Sono in diretta, non ti posso rispondere, caro Mutanda. Immagino che tu mi voglia dire una cosa molto semplice: che anche tu sei appassionato del pelo, come Sgarbi, come me, e non so come Parenzo, che adesso mi fa contento e dice come la pensa su questa cosa qua. Vai. Sì, durante la pubblicità, se vuoi te lo dico. No, durante la... Ah, vabbè, ho capito. Ma in privato dici. Ma neanche, ma non è divertente, cioè non è un gioco di la gente lo vuole sapere. Gente cioè, avida di queste cose. Sei così egocentrico che pensi che la gente dice Cruciani ha dichiarato che ma non ha dichiarato, piace. Ma non c'entra niente, ma è la vita e siamo qui a dibattere come se fossi da una parte, ma lo sai benissimo. Ma non gli ti piace o no? Ma te che come ti piace? A me piace così, a me piace col triangolino, a me piace. Sì, interessa, non hai capito, certo. Niente, interessa, non interessa. Non c'è solamente cosa, non ho c'è capito, solamente quello che interessa all'amico me. Andrea Romano, che pure gli interessa la figa, per carità, anzi parecchio. Cioè sì, non c'è solo quello che interessa. Cioè esiste pure una parte ma di mondo molto vasta. Ma lo rispetto, infatti, benissimo. Pubblicità, mamma, bisogna spiegare tutto. Pubblicità. Vi ormai rispetto. È tutto degradato. La Zanzara. Senza controllo sanitario. Donato, ti prego, chiama ogni tanto. Donato, non ti voglio chiamare io. Chiama ogni tanto quando devi fare qualche tuo editoriale, quando devi fare qualche tua comparsata, quando hai voglia di dire qualcosa, quando ti scatta la vena, ti parte la vena e vuoi dire qualcosa. La vena, il ragionamento, anche pacato, Parenzo, no? A me risulta che qualcuno lo sta denunciando, per fortuna. Donato Varese, vedrai. Sì. Denunciando? Sì. Ma veramente stai denunciando per Donato Varese? Per diffamazione. No, non io, altri, per fortuna. Ma roba incredibile, dai. Sì, Varese. Ma la gente c'ha tempo da perdere, c'ha tempo da perdere a denunciare Donato da Varese. Dai. Insultato ripetutamente. Donato Ricci da Varese, dai. Ah, Ricci si chiama anche. Sì, ma lo vai a vedere su Facebook, Ricci. Non sai un cazzo, dai. No, ma che va, perdo tempo andare a vedere. Allora, io, senti, no? Ho letto questa cosa qui incredibile su Facebook, un manifesto, non so se è vero o no. A Salzano, dov'è Salzano? Cercatemi un po' Salzano. Abita un infame bastardo rifiuto di allevatore di galline che lunedì 5 ottobre 2015 ha ammazzato a badilate il suo cane, ti giuro, c'è scritto così. Si chiama Attilio Mattiello e abita in via eccetera eccetera a Salzano. Se volete insultare lo schifo di bastardo lo trovate a questi numeri, è un'associazione animalista che pubblica questa roba, con i numeri di telefono pubblicati. Se volete pestarlo andate con i badili. Ma è pazzo. Lui ha picchiato a badilate il cane a morte. Ha picchiato il cane a badilate. Fatelo fallire, che nessuno dia soldi a una famiglia di aguzzini come quella. Ha già avvelenato cani e gatti dei vicini. Nessuno compri gli animali che alleva e spenna vivi di notte. Dovete fare tutti qualcosa. Infami che ammazzano i cani vanno annientati. Ciao ragazzi, sto apprezzando, Provincia apprezzando. Provincia di Venezia. Salzano, provincia di Venezia, Salzano. Grande richiesta, ritorna il meglio o il peggio di Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera. A me sono venuti dentro, mi ha portato via due televisioni, due cespugliatoi e due flessibili. Sono venuti alle 5 mattina, mi ha svuotato il garage e poi sono venuti dentro in casa. Beh, il decespugliatore serve sempre nella vita, scusa. E comunque prima che sparano loro è meglio che spari io. Cercarti, vai vedere le tue braccia possenti. Ma dopo però ti accusano di omicidio volontario, hai sentito questo? Sì, allora salvo un colpo per qualcheduno d'altro, hai capito? Terra e Nabucco salirà. Nelle case degli italiani può entrare chiunque a fare quel cazzo che vuole, perché tanto il padrone di casa sarà comunque indagato a prescindere, anche se gli dai un cartone sul muso, questa è la realtà dei fatti, al di là della pistola, capito? Fuori! Allora, non è una novità il fatto che la vittima passa da carnefice e il delinquente passa da vittima. Fammi diventare volgare. In questo stato di merda, gestito dai cattocomunisti, le cose sono così. E poi aggiungici pure le toghe rosse, che sono tante, che le leggi già di merda che hanno fatto i cattocomunisti, le interpretano secondo i loro pensieri. Fai sentire quanto è forte la tua voce. E concludiamo questa carrellata di Radio Padania con il conduttore Varin. Se uno ti entra in casa, passi per la moglie. Se qualcuno entra in casa tua e pensa di minacciare te e il meno, la moglie, ma sì, ne trovi un'altra, ma i tuoi figli, signori, gli scatta la cattiveria. Beh, che fareste voi? Carino, come ne trovi un'altra? Come ne trovi un'altra, dai? Va bene, Simone, provincia di Firenze, vai, poi Roberto, provincia di Venezia, vai, Simone. Pronto? Chi è? Il cane, che c'è? Il cane, Simone, che c'è? Il cane, per forza, con quei ladri in gira, ce ne ho tre di Doberman. Dai, tre Doberman. Questo è Doberman. Ottimo. Io non ho pistole. Faccio Doberman, che sono peggio delle pistole, perché tra i quali uno di questi qui è anche destinato a difesa personale. Questo è ottimo, e quando ho avuto io un personaggino si è avvicinato, è arrivato in casa, sì, e gli ho scaglionato dei suoi cani, sì. Questo si ricorda per tutta la vita, perché il cane non mollava finché non gli ho detto io di lasciarlo. Sì, ma guarda che puoi passare i guai anche per quello, Simone. Cioè, se il tuo Doberman va ad azzannare un ladro, quello sì, te fa causa, sì, sicuro. Intanto il ladro è scappato, tutto sanguinato. Voglio andare a vedere se è in ospedale. A fare la cosa, la denuncia. Vabbè, ne hai trovato uno senza arma e senza pistola, altrimenti quello sparava al cane e poi sparava pure a te, Simone, non ti preoccupare. Sì, sì, succede, sì, può accadere. Non sì, ti... Ma deve sparare tre di cane, non uno. Sì, sì, vabbè, però non è che adesso, l'alternativa alla pistola non è che possono essere i tre Doberman, no, insomma, ma i tre Doberman sono chiusi in casa, non sono fuori, sì. Arriva il cane spara, capito? Certo. Quindi quando arriva, tanto deve aprire la porta l'impermeabile, poi deve aprire la porta. Beh, questo per dire cosa? Allora, che dice che è un falso problema quello delle armi, non si non fa è niente. Non è che sia un falso problema, chiaramente avere un'arma ha qualcosa in più, però insomma, con i cani già ti difendi bene, capito? Perché quantomeno il ladro o malintenzionato che arriva e sente il cane che abbaia, ci puoi avere anche un chihuahua. Intanto si arrivano fra i Doberman alla porta, sì, porta sì, ho capito. Cioè, quindi ci pensano tre volte a andare via, capito? Cioè, forse tre, no, una volta ci pensano a andare via, prendono e vanno via. E comunque avere il cane in casa è sempre un deterrente, anche se ce l'ha piccolino, qualsiasi movimento. Vabbè, tu c'hai tre Doberman. E quello farlo quando. Scusa, ma come cazzo fai a campare con tre Doberman? C'è un giardino, c'hai? Certo. C'è il giardino, campagna, tre Doberman. Li porterà a passeggio fuori. Ma perché uno si deve prendere tre Doberman? Perché, scusa, cioè, si deve prendere tre Doberman? Tre Doberman, una cosa tremenda. Vivere, ma sei praticamente schiavo di questi Doberman. No, sei schiavo. Come no? Ma che schiavo? Io ma sì, schiavo, sarà affezionato. Sei schiavo, no? Scusa? Della figa, semmai. Quella è buona, quella è sempre buona. Quella è favolosa. Quella è favolosa. Doberman, diciamo, Doberman è figa, diciamo. Doberman è figa. Malato. Ah, sei malato, sei malato. Quanto malato? Raccontami, quanto malato? Quanto malato? Se sono malato come te, no, voglio dire, te magari non c'è. Io sono più malato di te perché c'ho anche la malattia dei cani, capito? Cioè, in che senso? Ah, c'è doppia malattia, c'è la figlia e i cani. Sì, ognuno ha le sue. Ognuno ha le sue. Ognuno ha le sue. Fare adesso per dire che non c'ha appunto malattie. No, io cosa c'ho? Malato. Se non sei malato di niente, sei pacato in tutto. Sei moderato. Sei moderato in tutto. Noiosissimo, malato di cinema, robe noiosissime. Ma che malato io. Di cinema, che di robe noiosissime. Ma tu non hai idea che vuol dire essere malati? Spiegaglielo tu, Simone, che vuol dire essere malati? Tu ci rompo l'impermeabile addosso, tu sei un foto anche, te che la figlia fa. Sì, esatto. Beh, Simone, dimmi che spiega a Parenzo cosa vuol dire la malattia, essere malati. Raccontagli. Malattia vuol dire la mattina quando si sveglia la prima cosa che pensi. Certo. E lo scopo finale è arrivare e trovare senti il Doberman, no? E scusa, ma quando te le porti in casa i Doberman che fine fanno? Abbaiano. I Doberman vanno nel kennel chiusi dentro. Ma è successo è successo che giravano intorno magari durante l'amplesso, durante il rapporto? Sì, una volta sì, infatti mi impaurì un attimo perché mi venne dietro e mi cominciò a leccare. Sì? Pensavo fosse lei, però lei l'avevo davanti e allora a un certo punto che c'è per il cane. Ma scusa, non hanno paura dei signori Doberman, le donne? No. Beh, io avrei paura dei Doberman, cioè, no, fossi donna e entra a casa di qualcuno, cioè i Doberman. Ma tranquilli, sono tranquilli, ecco, con le persone che faccio entrare in casa sono tranquilli. Ma tu sei single, amico mio, sei single? Certo, fratello, certo, sei single, certo. Fratello, un fratello assoluto. Simone, ciao, ti abbraccio. Ciao. C'è il signor Antonio Zechile che mi sta mandando dei messaggi. Ancora? No, dei messaggi straordinari sul pelo, sui Doberman, sul significato del pelo. Io farei una puntata intera, io direi nei prossimi giorni. Ma già è stata fatta, mi pare. No, una puntata intera, nel senso un'invitata di quelle proprio complete su questo argomento, in modo da chiudere il cerchio con il signor Zechile, numero uno assoluto. Siamo andati a sentire, caro Parenzo, un nostro amico che lavora al comune di Borgosesia, che sì, è il comune dove è sindaco Buonanno, e ha proposto ieri da noi per primi, ricordatevelo sempre, poi altri spacciano le cazzate loro, da noi ieri ha proposto i 250 euro, il bonus pistola. Noi abbiamo fatto qualche telefonatina agli abitanti di Borgosesia, io ho un mio amico che lavora lì al comune di Borgosesia, lì come è un funzionario, Parenzo, non posso avere un funzionario al comune di Borgosesia? No, per carità. Io ho amici dappertutto, camionisti, dipendenti pubblici, eccetera, eccetera. Il quale ha chiesto ai cittadini, ma scusi, ma lei la pistola la prenderebbe? Sì. Pronto? Sì, signora, buonasera, chiamo dal comune di Borgosesia. Lei sa, signora, che il sindaco ha deciso di costituire un fondo, un bonus di 250 euro per l'acquisto di un'arma da fuoco per potersi difendere dopo i recenti fatti? Di cosa devo avere paura? Che qualche persona si introduca furtivamente a casa sua. Voi siete della Lega, state cercando di spaventare la gente. Adesso ma no, ma che spaventa? Stufando. Ma se non... avete qualcosa da dire, scrivete. Ma signora, ma ecco, perché è così? Ma perché così irascibile? Perché non mi piace che andate a spaventare la gente. Ma non spaventiamo qua. Nessuno. Non in televisione, in radio, dappertutto. Adesso è ora di smetterla. Le ho chiesto solo un parere, quindi... È ora di smetterla. Quindi non le sta simpatico? Ma voglio continuare il discorso. Ma no, ma no, ma no, ma no, ma questa... E ora con la piantata lì. Pronto? Sì, buonasera, chiamo per conto del comune, mi chiamo Colombo. Prego. Lei saprà sicuramente i fatti, gli ultimi fatti, per i quali il sindaco Buonanno ha deciso di costituire un fondo, un bonus di 250 euro per l'acquisto di un'arma da fuoco per potersi difendere. Si sente in pericolo? La giustizia in Italia è una comica, fa ridere, siamo un paese di merda, però un'arma non è giustificabile. È giusto che se uno è in casa e arriva un delinquente, quel delinquente che viene preso deve fare la galera dura, non uscire il giorno dopo. Questa è la giustizia di merda di questo paese di pupù. Pronto? Sì, buonasera, chiamo dal comune. Mi dica. Il sindaco ha deciso di costituire un fondo per incentivare l'acquisto da parte dei cittadini di una pistola. Subito la prenderei, subito. Sa cosa vuol dire subito? Per difendermi se vengono in casa mia. Non posso ammazzarli, ma stiano a casa sua, non a casa mia. Avesse meno anni, quelle cose lì le terrei anch'io. Però io mi sono dotata con spranghe e con tutto in casa. La mattina vuol dire la mattina, quando si sveglia la prima cosa che pensi è quella, è la figa. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta La Zanzara. Allora andiamo a Lorenzo, provincia di Monza, vai Lorenzo. Sì, pronto, ciao Parenzo, ciao, sono Benedetto. Ok, allora ascolta, io quando torno a casa sono felice di trovare i ladri, te lo dico subito, mi è successo un paio di volte. Perché? Allora, perché io mi so difendere bene, amico mio, ok? Sì. Allora, io la prima, però dopo passi guai. Allora, la prima volta l'ho beccato mentre stava tentando di rubarmi l'auto di mio fratello. Sì. L'ho beccato, l'ho buttato, l'ho saccagnato bene, poi l'ho buttato nel bagagliaio della mia macchina, ho chiamato la polizia, è arrivata abbastanza in tempi brevi, un quarto d'ora, 20 Scusa, minuti. Scusa, amico mio, ma che sei un lottatore? Facevo sicurezza. Ho capito, ma quello d'accordo, non ti spaventi di fronte a nulla. Il problema è che passi la gente guai, normale perché... se la fa sotto appena vedo un ladro. No, allora il problema è che il giorno dopo mi ha chiamato, mi ha detto ti è andata bene che non ti ha denunciato per sequestro di persona. Purtroppo in Italia si dà retta magari anche a queste cose, tu comunque devi trovarti un avvocato. Allora lì mi è andata bene, la seconda volta torno, ok, è in appartamento. Sì. Vabbè, praticamente sono entrato, aveva bloccato la porta con una sedia, io quando sono entrato lui è scappato e praticamente si è buttato fuori, sangue da tutte le parti, si è buttato praticamente fuori dalla finestra. Delle cose da film. Per curiosità, ma dove cazzo campi che ogni volta arrivano i ladri da tuo fratello, da te? Ma neanche in Die Hard. Io sono a zona Alginate, li rubano abbastanza, quindi cioè non è la prima volta. Ma lei chi è? Die Hard, Bruce Willis nel mitico film. No, io sono la Benedetto, Parenzo, sono la Benedetto. No, perché la storia sembra un po' da Bruce Willis, da Die Hard. No, io poi volevo dirti una cosa, visto che sono abbastanza famoso in Albania. Dimmi. In Albania. Perché sei famoso in Albania, scusami? Fra l'imprenditore. Vabbè, no, vai su internet, scrivi Lambrenedetto Albania, primi 10 e scrivi che cosa? Scrivi? Lambrenedetto Albania, visto che comunque io sono abbastanza ospite nelle trasmissioni, il signor Librandi lo avevo contro venerdì scorso ad Iceberg, lui è uno molto particolare, basta che scrivi Lambrenedetto Albania. Lambrenedetto? Lambrenedetto Albania e tu vedi che i primi 7-8 video sono miei, visto che comunque ho fatto cadere tutto la disinformazione che c'era sull'Albania. Lambrenedetto, metti Lambrenedetto Albania. Allora in Albania, visto che io comunque sono molto seguito anche dalla televisione eccetera eccetera, anche se sono qui e partecipo ai programmi fittici italiani. In Albania, se entri in banca, non ci sono come in Italia le porte blindate, eccetera, eccetera. Lì praticamente entri come se entri dal macellaio, però la differenza è questa qua, che ti fanno un culo così se ti beccano, hai capito? In Italia invece va tutto bene. Io, caro Parenzo, sono quello che ha fatto i video in Germania dove faccio vedere i prezzi che costavano la metà, ok? Penso che Parenzo, eccetera, eccetera. In Germania funziona la stessa cosa, se entri in banca è come entrare praticamente nella macelleria. Anche lì, se ti beccano, ti fanno un culo così. Cioè, è solo qui in Italia, più della metà delle rapine in Europa vengono fatte in Italia, perché in Italia fai quel cazzo che vuoi, capito? Non funziona così nelle altre parti. Prova ad andare in Svizzera, io abito a 20 minuti dalla Svizzera, prova ad andare in Svizzera a rubare, a vedere cosa ti fanno. Il problema è questo qui, è semplice, qui cioè la gente fa quel cazzo che vuole. Io sono abbastanza grande e grosso. E in Albania invece? E in Albania ti fanno un culo così. In Albania entri e metterò un video. Ma e lo c'è metterò c'è la pena di morte in Albania, non mi pare però. No, è che in Albania tu ti fanno un culo così, ti fanno un culo così in Albania, te lo fanno anche in Romania. C'ho ma cos'è questo? Sono poveri in Albania, l'hambre ne dite? No, no, ma ho capito chi è. No, è un video, su YouTube va fortissimo, mi dicono su YouTube. Io, in Albania, questo qui c'è scritto su YouTube. Allora, io venerdì sono ospite fisso ad Iceberg, ho discusso con Librandi. Librandi è una persona particolare, ha le sue tesi. Io ti dico che se ti ma tu hai le armi o no? No, armi. Non ti servono, per carità. No, armi. No, vabbè, l'hanno no, detto, ci sentiamo presto. Ti saluto, mi fa piacere averti telefonato. Abbracci, grazie, ciao. Un abbraccio ciao, a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Allora ragazzi, io vorrei cercare, ci abbiamo ma provato, è un'ora, qua? Non ti preoccupare, dopo l'Albania è cresciuta. Dopo fai una ricerca. È interessante questo tizio. È un'ora che sto cercando di chiamare, non ci ho provato in diretta fino adesso, l'allenatore dell'Arezzo, il mitico Eziolino Capuano, quello che bisquarto, pezzi di merda ai giocatori, eccetera, forte, eccetera. Forte quello lì. Ci riproviamo ancora, dai, speriamo. Gli allenamenti saranno finiti a quest'ora, no? Sto parlando con l'ormai ultra famoso Ezio Capuano. Ho detto Eziolino? Sono Cruciani, buonasera. Oh, salve. Come stai? Tutto a posto? Tutto a posto. Ma ormai manca solo cosa? Ormai manca Maria De Filippi. Maria De Filippi? Posta per te, perché il ragazzo mi ha mandato un video con le Iene, no? Sì, però esatto. Dico, perché non è venuto da me per 4 giorni consecutivi invece di nascondersi? No, l'avrei gestita in maniera totalmente diversa. Perché sperava, forse sperava, caro Capuano, che avendo mandato questa cosa alla stampa, lui passasse come la vittima, la squadra come vittima dei suoi attacchi. Ma quali attacchi? Ma cioè, io non ho mai detto tu. Ho parlato in maniera generica come ho fatto tante volte nella mia carriera. Capuano, ma noi non lo perdoniamo questo calciatore o no? No. Lui ha fatto una serie di errori clamorosi che andava gestito in maniera totalmente diversa. Cioè, lei dice, primo non doveva registrare, secondo... Ma no, il fatto di registrare, posso dire la mia, la cosa che mi ha dato fastidio, può darsi che io sono un sentimentale attaccato ancora al vecchio romanticismo, no? Io il fatto della sacralità dello spogliatoio, che sono venuti fuori queste situazioni, a me interessano poco. Bisogna vedere uno come dice determinate cose. Però scusi Capuano, ma se uno non dice quelle cose, io le ho risentite. Se quella non è cattiveria, allora i cattivi che fanno? Pigliano il calascino e cominciano a sparare. Lei ha detto infami, vi scanno, vi squarto. Sì, infatti ci sono litri di sangue che abbiamo dovuto togliere dopo che abbiamo perso 4-1. Allora ci mancherebbe pure. Uno bisogna vedere la cosa come la dice. Se la dice con cattiveria, e allora è grave. Lei ha detto di aver fatto di peggio. Che ha fatto di peggio? Molto. Cioè, per esempio? Io avrò preso quando tutto c'era e buttato all'aria. Ha spaccato lo spogliatoio. Ma penso che io non penso che qualsiasi allenatore al mondo si comporti in questo determinato modo, tranne se non è un accompagnatore. io nel momento in cui perdo questa fase adrenalinica non farò più l'allenatore. Riallacciandomi a ciò che volevo dire, prima, la cosa che mi ha devastato è stata la seguente: a me non mi ha dato fastidio nulla, nemmeno il fatto che è venuto meno la sacralità dello spogliatoio. E che cosa, però attenzione, una persona, lasciate perdere Capuano, di 50 anni, di 40 anni, che ogni giorno che si gioca il proprio posto di lavoro con tensioni illimitate, che rischi anche un malanno nel momento in cui c'è un'arrabbiatura notevole, pensare di essere registrato da uno che può essere suo figlio o suo nipote, da un moccioso che poi debbono ridere sopra, un moccioso, che siamo dei fortunati, un moccioso, perché uno a 20 anni gli puzza ancora la bocca di latte. Definisco questa cosa nata come una goliardata, dove non c'era assolutissimamente malafede se non il dolo illimitato di sbeffeggiare una persona di 50 anni. Quindi non c'è. Nel momento in cui la cosa è venita fuori, se uno si è nascosto, per me è un codardo. Lui è diventato codardo quando si è nascosto, invitato dai propri colleghi non ha voluto dire. Comunque non c'è più era l'autore. Non c'è più posto là nella squadra. Nella maniera più assoluta. L'Arezzo è una società seria. Ho capito. C'è un'altra cosa. Nel passato c'è stata questa frase sulle checche, no? La trovo assurda. Anche lì io non volevo offendere nella maniera più assoluta. Ebbi a dire, io in campo non voglio delle checche, ma in quel momento non pensavo. A te, per esempio, ti piacciono i matrimoni gay, le adozioni, cose del genere? Nella maniera più assoluta le adozioni non le condivido, poi tutte le altre cose ognuno può fare quello che viene più opportuno, io rispetto tutti. Se mi chiedi una cosa ti dico che l'adozione no, ma è un mio pensiero, per l'amor di Dio. Certo. Nella maniera, cioè, l'idea che un bambino possa essere cresciuto da due uomini e da due donne non ti sta bene? No, nella maniera più assoluta. Te fa pure un po' schifo, diciamo la verità. Se lo dico poi diventa un'altra cosa, mi fa molto schifo. Senti, ma a proposito, ma politicamente chi è che ti piace? Con grande onestà sono stato sempre di destra, quindi non ho vergogna o non ho... Chi hai votato? Nel dire determinate cose. Missino, eri fascista? Beh, quando c'era Almirante ero molto attratto. Io dico le cose con grande onestà, con grande schiettezza. Cioè, per esempio, non credo che abbia usato quel linguaggio, perché è un ex fascista. No, non ho detto che sono fascista. No, ma infatti ho detto non credo che lei abbia usato quel linguaggio. Io ero molto attratto quando Almirante chiudeva la campagna elettorale, sto parlando della preistoria, piazza della Concordia di Salerno, io ero sempre presente anche essendo un bambino, parlo di 40 anni fa, se gli piace, parlo di 38 tempo così, anni fa. 37 anni fa. Cioè, per esempio, per l'Italia qualcosa di buono avrà fatto. Sì, avrà dato Mussolini da mangiare a un piccione una volta, questo va bene. Magari, ha fatto le bonifiche, ha costruito una città bella come Latina. Ma qualcosa di buono. E dopo il Movimento Sociale, dopo Almirante, chi ha votato? Berlusconi? Berlusconi è una persona, secondo me, molto intelligente, un grandissimo imprenditore, è uno che... Per cui l'ha votato? Qualche volta sì, con grande onestà. E Renzi? Renzi ti piace? Sì, l'ho votato. L'hai votato? Ma Parenzo, questo ti sta bene però stavolta, Parenzo, questo ti sta non bene. Non me ne frega niente quel che vota e non vota, mi interessa quel che lui ha detto in quello spogliatoio, quel che ha fatto, che secondo me è giustificato dal fatto che fa l'allenatore di una squadra di calcio, non fa il presidente del consiglio, e quello è il linguaggio che si usa. Poi se gli piaceva Almirante, che gli devo fare? Purtroppo. Io sai chi odio nella vita? Chi odio? Ipocriti e i falsi moralisti. Bravo. E questo lo diceva però. Bravo. I falsi moralisti e l'ipocrisia a difesa del posto e del potere è una cosa che... Bravo. Vabbè, caro Ezio, ma ti aspetti una multa per queste cose? No, naturalmente, la multa... Non lo so, perché dovrei essere multato. Ma che ne so, poi, in Italia... Ne ho pagate tanto di multe... Per quella cosa delle checche, per quella cosa delle checche 5.000 euro, mi sembra, 5.000. No, 10. 10 la società e 5 tu. Va bene, a presto, ciao Ezio, ciao. Salute. E adesso la borsa. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. per favore, a noi non frega in casa di niente. Simone Brescia, vai! Volevo dire a Parenzo, praticamente, sì. Dice a te che sei un istigatore alla violenza, che vuoi uccidere, lui è un istigatore dei ladri che vuole che entri in casa della gente. Sì, è vero, è vero. Perché istigatore dei ladri, non ho capito. Come? Perché istigatore dei ladri, non ho capito. Sì, praticamente vuole istigare la gente a non difendersi con le proprie mani o con gli strumenti che ha in mano. Istigare la gente a non difendersi. Eh sì, praticamente sì. No. Guardi, che ho detto che è legittimo sparare. Non l'ho detto io, peraltro, lo dice anche la legge, che è legittimo difendersi in casa. Tu, tu però sei della corrente Librandi. Della corrente Librandi. Sei d'accordo? No, io sono della corrente che è ovvio. No, non che pensi come Librandi, come signor Librandi. Ti dico come la penso. Vabbè, che tu è ovvio. La pensi come quello che succede. Quello che succede per te va sempre bene. Dunque, se apro un'inchiesta va bene. Se io invece sono per cambiare le cose. Cioè, ma non c'è niente da cambiare. Ma non c'è niente da cambiare. Se c'è un morto, per te va tutto bene. Non c'è niente da cambiare. Entreranno in casa tua, ci sarà da cambiare. Se c'è un morto, non possono cambiare la propria. Quando entreranno in casa tua, ci sarà da cambiare. Se c'è un morto, vediamo se cambiando tecnica senza attaccarlo, capisce Cesare. Allora, se c'è un morto, come in questo caso, è evidente che la procura, ma è un discorso noioso, apre un'inchiesta per verificare com'è morto. Il signore si è difeso, è fuori di dubbio che non gli voleva sparare perché ha avuto un rapporto con la moglie. D'accordo? Questo è abbastanza fuori di dubbio. Sì, ma il problema fondamentale è che questo qua... Allora, questo signore ha sparato. Ora, come in qualunque paese normale, dalla Francia alla Germania, quando c'è un caso come questo, la polizia e la procura indagano per capire che cosa è successo. Ma questo è normale, nessuno lo mette in dubbio. Ma stai dicendo delle cose scontate. Quello che non mi torna... Hai letto nei cronisti, negli amici nostri cronisti che stanno indagando, dicono che questo qua potrebbe andarci di mezzo per un motivo molto semplice. Perché invece di sparare aspettando che questo ladro sia entrato in casa, ha sparato prima. Il punto. Ma non è questo il punto. Perché adesso esiste esiste semplicemente. Cioè, cos'è che quindi in sostanza tu dici ancora una volta che non ci dovrebbe. Quindi uno può liberamente sparare se uno ti attraversa il cancello. Muore, se tu entri dentro casa e non succede niente. Non è che non succede niente. Viene chiuso il caso in breve tempo. Non viene neanche se si indagato. Accerta che quello è un ladro e si è accertato che quello è un ladro. Doveva essere espulso nel 2013, eccetera, eccetera, eccetera. E tu hai sparato. Che me ne frega a me se hai sparato da sopra, da sotto, se è entrato in casa o non è entrato in casa. In quale paese accade? In moltissimi paesi. In moltissimi paesi. Sì, moltissimi paesi. Non ti vediamo. In moltissimi. Simone, che volevi dire? Bene. Tu hai già visto tutti i paesi dove accade? Sì, non ti preoccupare. In moltissimi paesi. Cioè, in moltissimi stati americani. Comparato in Europa. In moltissimi stati americani, eccetera, eccetera. Negli stati americani. Cioè, negli stati americani succede che la polizia neanche apre un procedimento. Non ho detto questo io. Fammi capire perché è interessante. Non ho detto questo, Simone. Vai. Vabbè, quando entrerai in casa sua cambierà. Ecco l'altro argomento valido. Benissimo. Quando Lina da Bologna. Ti stuprano a casa. Lina da Bologna. Lina da Bologna. Ti stuprano a casa la moglie, la figlia. Capirai. Lina, dimmi. Non sopporto Parenzo. Neanch'io. Ma non neanch'io. È possibile. Cioè, non ti sopporti da solo. Questi ragionamenti. A me mi sembra una persona, l'ho già detto un'altra volta, ipocrita e poi non sincero. Il buonista. Buonista soprattutto. Se tu non riesco a capire come fa a stare in una trasmissione con lei, Cruciani, che per me lei è la cosa che mi stupisco, Lina, non è questo. Io vado d'accordissimo con Davide su tante cose, siamo in disaccordo, ma non riesco a capire perché non va fino in fondo nelle cose sue. Deve sempre mantenere questa posizione attaccata, non so, ai codicilli, eccetera, che non serve a niente. Cioè, le cose sono molto semplici, sono molto chiare spesso. È ovvio che sono poi complicate nel dettaglio, e per carità, lì si occupano i giudici, ma noi non facciamo facciamo né i giudici, no, infatti, né gli avvocati. No, questo per dire la che cosa è molto chiara. La cosa è semplice. Se tu sei dentro il recinto politico, di casa mia, bene, e questo lo puoi dire tu. Sparo, se un io quello che voglio dire è che se un politico vi propone, questo lo puoi dire tu, lo posso dire anch'io, e ha quel valore. Ma no, tu non lo dici. Se non lo dico perché penso che sia una stronzata. Se un politico ve lo dice, poi voi dovete chiedere, quindi questo in che cosa si tramuta? Cioè, cos'è che volete mettere nel una cosa poi che non si può fare in Italia tecnicamente, perché qualunque corte, in particolare la Corte Costituzionale, ti dirà è una cosa che non si può fare. Vabbè, però dopo, per carità, si può promettere come tante cose. Siamo arrivati alla Corte Costituzionale, ciao, ciao. Cioè che si può sparare dal balcone. Se tu tanti piano guardi il mare, Parenzo, grande ritorno qua alla Zanzara, eh? Si sta a morire. Il barone nero torna alla Zanzara. Barone, come sta? Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo, buonasera soprattutto ai radioascoltatori. E vabbè, se non facciamo la, non facciamo l'importante, Iavari. No, cortesia, semplice cortesia. Roberto Ionghi Lavarini, detto il barone nero. Ogni volta che parliamo con Roberto Ionghi Lavarini sembra essere in una caverna. Dove ti trovi? No, sono ancora in ufficio. In un gabinetto, che è il luogo suo. No, perché in un gabinetto, David, dai. È il luogo dove deve stare. Senti, è sul water alla faccia di Parenzo, che mi aiuta e mi stimola a cagare. Fa piacere essere utili in qualche modo. Signor fascista Ionghi Lavarini, allora sì, io voglio al signor fascista Ionghi Lavarini vorrei subito chiedere una cosa. Lei cosa farebbe per questo signore, questo 65enne di Vaprio d'Adda, peraltro vicino al posto dove lei abita? È un ottimo patriota e secondo me andrebbe, innanzitutto lo Stato dovrebbe dargli una medaglia al valore civile, sì, per medaglia, per essersi difeso valorosamente contro il nemico straniero, da un parassita, e avere liberato la società da un parassita. Cioè ha liberato quindi la società da un parassita. Medaglia civile, medaglia civile al merito per questo bravo pensionato. Poi, visto che ha anche una buona mira, direi che il CONI gli proponga anche una medaglia per il tiro, perché è come anche un bravo tiratore sportivo. E secondo me dovremmo anche fargli un bel regalo. Ecco, questo, cioè, che regalo, scusi. Aiutiamo, sicuramente ha fatto bene il presidente Maroni ad annunciare le spese che legali, sì, Lombardia a curare le proprie le spese, vabbè, quello, legali, vabbè, del signore, sì. Ma il signore merita tutta la solidarietà e la stima, sì, del popolo italiano e di, vabbè, centinaia e migliaia. Ma cosa bisogna fare pure? Vengono derubati ogni settimana, ogni giorno, nelle case, negli appartamenti. Finalmente, ma tu ce l'hai le armi, barone? Reagiscono e si difendono, barone. Questi parassiti che ci invadono, che rubano le nostre case, capiscono che devono stare un pochino più attenti, perché non tutti gli italiani sono Sula, qualche italiano si ribella, gli spara e finisce così, barone, la propria attività, attività criminale. Barone, scusi un attimo, ma lei ha delle armi in ufficio? No, non abbiamo armi né in non ufficio. Abbiamo chi? Lei, abbiamo chiesto a lei. La Digos non lo permette, purtroppo. Beh, cioè, a lei, purtroppo. Chissà perché. Perché Parenzo? Vedi che funziona la polizia in questo paese? Bisogna campanellare più fucili per tutti. Perché l'avranno più fucili per tutti. Siccome, vedi, questa è la dimostrazione per quelli che chiamano, che qualcosa in questo paese funziona. Cioè, siccome per infermità mentale non può essere data la pistola, è una delle poche ragioni. Che in realtà non è così difficile da avere armi. Cioè, se non sei un ex tossicodipendente, se non hai commesso dei reati e se non sei psicolabile, la pistola tecnicamente te la danno. Se fai una richiesta, ti alleni. Per motivi politici. E anche per motivi politici, ovviamente. È appunto. Hanno ritenuto, sarebbe come, esattamente, sarebbe come dire a un ex brigatista: gli dai la pistola, dice, ma forse, guarda, è meglio non dargliela. Invece, tu dici, perché non ti dai la pistola? Perché lo Stato decide che a un ex BR, giuridica ecco, appunto. Ma tu dici anche ai meno mali mentali, però penso. Il suo anche caso, squilibrati, dici, magari avesse l'onore di essere, che so io, uno di prima linea, uno di un ex NAR, ecco, magari avesse l'onore, anche quelli che erano quelli che erano dei veri criminali, ovviamente lo avrebbero internato o messo a lavare i piatti. di questo signore. Non usi quel termine internato. Sì, no, vabbè, insomma, messo a lavare i piatti, fatto, va bene, insomma, sì, battuta inutile. E gliel'hanno dato, gliel'hanno respinto per infermità mentale. Vuol dire, uno, che il sistema sanitario nazionale in questo paese, che se ne dica, funziona. Due, che anche i controlli alle volte ci sono, perché effettivamente gli hanno negato il porto d'armi. Scusa, Barone, io voglio capire una cosa. Io devo dire che più volte sono intervenuto fisicamente, abbiamo allontanato. Abbiamo chi? Tu capisci che se lui va a chiedere, capisci la scena? Cioè, come ci si comporta abbiamo. In Italia. Abbiamo, cioè, tu capisci chi? Che se lui va a chiedere il porto d'armi, dice, sì, noi abbiamo... E il poliziotto lo guarda e dice, scusi, lei come si chiama? Roberto Ionghi Lavarini. Ecco, prego, lei cosa vuole? Porto d'armi. Ah, bene, mi racconti un attimo come... Ah, dice, guardi, noi del casato Ionghi Lavarini della caserma... Scusi? Noi fascisti del... Noi fascisti del quarto reggimento... Come dice? Noi abbiamo fermato con queste mani nude... Ah, ho capito, esatto, scusi. Esatto, noi così è successo. Allora, armi, il poliziotto che è là, che ha la fila lunga di gente che deve fare un sacco di cose, dice, mi aspetti qua un secondo, chiama 118, che è quello che sto componendo io, sì, sì, chiama questo numero, e chiama semplicemente la Croce Rossa o quella che è, e lo fa portare via per una visita. Basta, tutto qua. Questo, scusami, Ionghi, come hai appreso la notizia che il signor Netanyahu ha detto che Hitler non voleva in realtà uccidere gli ebrei, ma semplicemente cacciarli? E beh, poi che è stato il signor... Direi che il presidente Netanyahu ha riconosciuto un dato storico, cioè... fondamentale, che finalmente, siccome la storia prima o poi, sì, ritorna... Cioè che alla fine Hitler era un bravo uomo, dici? Ma è un dato di fatto che nella prima Germania nazionalsocialista c'erano organizzazioni ebraiche che collaboravano con Hitler per cercare una soluzione al... cioè gli ebrei collaborarono con Hitler per trovare una soluzione, cioè per andarsene dalla Germania. Lo sa benissimo anche Parenzo, è stata coniata persino una medaglia dove da una parte c'è l'effigie, c'è ma alla fine per te, alla fine per te, dall'altra parte c'è la svastica, sì, però Germania... Scusami, Ionghi, io voglio capire, è un dato storico, cioè non mi sembra che Netanyahu ha detto finalmente la verità, anche che i palestinesi praticamente suggerirono a Hitler l'olocausto. Senti, voglio chiederti... questo mi sembra un po' una forzatura, indubbiamente i fascismi europei, in particolare in no, però voglio chiederti una cosa, un buon rapporto con il Gran Mufti di Gerusalemme. Ma secondo te fece qualche cosa di positivo il signor Hitler? No, questo l'abbiamo detto, l'abbiamo... No, una cosa positiva che fece Hitler, la fece una cosa... Ha rilanciato l'economia tedesca, lo Stato sociale tedesco. Beh, comunque, dunque, uno statista notevole, uno statista. Un grande... Con i suoi errori, indubbiamente sì, uno statista. Un grande statista, dico. Beh, con i suoi gravi errori, ma... Un grande statista. Ma diciamo che è stato uno statista come Churchill, come De Gaulle, sicuramente come meno di Mussolini, ecco, questo un vero statista è stato Mussolini. Lui un po' meno, un po' sotto. Ho capito mondiale, perché non gli è andato il porto d'armi, perché cioè, basta questo. No, ma sono personaggi storici, anche Stalin è stato uno statista. Va bene, faccia la richiesta una, di nuovo una scelta, e racconti queste cose, storico, magari sa. Ciao Roberto, ciao. Saluto a tutti voi, ciao, buona ciao serata. Cesare da Roma, vai Cesare! Cruciale, buonasera, sono Cesare, e certo che se mi fai seguire quello che dice che Hitler è un bravo uomo. Amico mio, ma quello è il signor Barone Nero di Milano, il signor Roberto Ionghi Lavarini, che ti devo fare? Cioè, okay, beh, è quello certo, che è, giusto, cioè, il Barone Nero non è che può pensare diversamente, il signor Barone Nero. Allora? Invece io mi voglio candidare nella lista Zanzara, perché pure io voglio cambiare le cose. Sono di Roma, sì? Sono il figlio di Renato Raschel. Beh, amici miei, il figlio di Renato Raschel. Ma veramente? Perché veramente, sì, che è... Cesare, come si chiama di cognome, no, in realtà Raschel? Chiamano tanti bitomani. Ranucci. Esatto. Ranucci. In arte Raschel, sì. E con il grido arrivederci Roma, quella vecchia, per una Roma nuova, sì, mi voglio candidare con la lista Zanzara. Guarda, scusami Cesare, perché... Cesare Ranucci, ma canti pure tu o no? Canto pure io, sì. Fammi qualcosa, dai. Come fammi qualcosa? Dai, fammi qualcosa così all'impronta, al volo. Fammi sentire se... Il turista che arrivi, Ti bevi di fuori e di scavi e poi tutto un tratto ti trovi Fontana di Trevi che è tutta per te. Beh. E poi via via la canzone. Bravo, bravo. Quella più famosa di Rush qual è, Cesare? Indubbiamente Arrivederci Roma, seguita poi da Romantica. Sì. Visto che abbiamo parlato di Hitler, lui scrisse Arrivata la bufera proprio sì. In merito all'arrivo dei tedeschi e recentemente ho trovato addirittura una lettera firmata da un generale tedesco sì. Con il timbro del Führer eccetera eccetera che era andato proprio a vedere uno spettacolo sì. Di mio papà. Ma tuo papà di che anno è? Di che anno è tuo papà? Del 1912. E cioè, di che era insomma? Era sì certo. Del 1912. Per cui proprio la guerra l'ha vissuta tutta. Il generale? Il generale sentì pure arrivata la bufera, fatto sì. Sta che papà raccontava sempre che gli italiani erano tutti terrorizzati perché dicevano eccolo là, mo l'accoppano. Sì. E invece tipo il giorno dopo, non so, insomma qualche giorno dopo arrivò pure una lettera di congratulazioni e di ringraziamenti che si era tanto divertito mentre lui l'aveva preso in giro proprio in faccia, quindi... Stupendo. Ma com'è Arrivederci Roma? La lista avrà anche un antifascista. Arrivederci Roma, allora, ma come, certo, ma stai scherzando? Io anzitutto voglio assicurare Cesare Ranucci, alias, parentesi Rushel, figlio di Renato Rushel, che sicuramente ci sono la lista Zanzara Roma che prenderò in serie. Capolista. No, ma con adesso vediamo. Capolista. Ma Arrivederci Roma, com'è? Proprio solo la strofa, così concludiamo bellissimo. Arrivederci Roma, goodbye, goodbye, au revoir. Beh. Mi trovi a spasso in carrozzella e ripensi a quella ciumachella che era tanto bella e che ti ha detto sempre no. A presto, ci sentiamo, ciao, ciao. Ciao. Voi ci dovete far bellicare che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.